Va bene, dopo aver ricordato Valerio, entriamo nell'argomento. L'argomento è che, almeno io, come molti altri, abbiamo potuto scorrere tutti gli articoli che Sandro ha fatto apparire sul sito di Carmilla. Il titolo era ed è Il nuovo disordine mondiale, una serie infinita. Mi chiedo come mai Netflix non ti abbia ancora contattato, perché ci potrebbe È quello che stare. cerco di fare. E quindi io chiedo a Sandro di, con questo termine, cioè il nuovo disordine mondiale, che cosa intendi veramente, ecco. Sì, faccio solo un passetto indietro e partiamo da questo libro che avevo già presentato una volta qui al Conchetta e con i compagni della Calusca, che è La guerra che viene. Che era un libro uscito nel 2019 che raccoglieva gli articoli scritti sostanzialmente negli 8 anni precedenti. Tutti articoli che indicavano come le contraddizioni del capitale non potessero altro che finire con l'esplodere in una guerra. È un libro che quando è uscito molti dicevano, quando pubblicavo quegli articoli, dicevano: ma perché? Ma no, ma non c'è più nessuna guerra. Te ricordo teorizzazioni assurde, Stati Uniti e Russia ormai sono d'accordo sul gas, su tutto, figurati se scoppia ancora la guerra, anche di personaggi appartenenti alla sinistra o alla cultura di sinistra, cioè non altri, non quelli che si cullano nel sogno borghese, però un po' tutti si cullavano in questo grande sogno. Io perché avevo scritto quel libro? Perché uno degli elementi fondamentali che io intravedevo era il progressivo indebolimento dell'impero americano. Perché noi abbiamo avuto una serie di situazioni in cui, quando si parla di guerra fredda, ecco, anticipiamo subito una cosa, la guerra fredda, la crisi dei missili di Cuba rispetto alla situazione odierna era una barzelletta di Gino Bramieri. Cioè, no, non, per chi si ricorda Gino Bramieri, però vedo che molti di noi qui possono ricordarselo. Non era il dramma di adesso, perché? Perché c'era un mondo spartito in due, una potenza era più forte, gli Stati Uniti, l'altra più debole, ma insomma ognuno governava il giardino di casa sua. Oggi quando vedo tutti scaldarsi molto per l'Ucraina che si diventa, sono vecchio, non così vecchio, ma mi ricordo bene, 53, non posso ricordarmelo, ma dalla lettura. A Berlino scoppia la rivolta operaia, nessuno si preoccupa. In Ungheria nel 1956 scoppia un'altra rivolta operaia, nessuno si preoccupa. Il 68 a Praga, con tutto quello che può aver portato di liberalismo o d'altro, ma guai a toccarlo perché no, i vecchi comunisti, PC, eccetera, difendevano quelle cose, dall'altra l'Occidente tutto sommato se ne fregava, ognuno nel giardino di casa sua faceva quello che voleva. Quella situazione lì è finita. E gli Stati Uniti hanno pensato in un primo tempo, se vi ricordate, subito dopo la caduta del muro si parlò di nuovo ordine mondiale, no? Ma quel nuovo ordine mondiale si tramutò subito in un grande disordine mondiale, di cui come data esemplificativa è il caso delle Torri Gemelle nel 2001. L'11 settembre 2001 è proprio la data che segna: guardate che qui l'ordine mondiale non ha funzionato. Erano passati 12 anni dalla caduta, 11 dalla caduta del muro di Berlino, dell'Unione Sovietica, eccetera. Ma ormai c'era un grande disordine. Quel disordine negli anni si è accresciuto. Questa globalizzazione sicuramente ha fatto bene al capitalismo, ma non solo al capitalismo occidentale, perché nuove potenze sono uscite alla ribalta. Prima di tutto la Cina, ma guardate anche l'India. E d'altra parte, prima di venire qui oggi sono passato al MUDEC a vedere una mostra, c'era una cosa su Milano, che in cui tra una riga e l'altra si ricordava come fino agli albori della rivoluzione industriale, ma sono dati concreti, dati, il centro della manifattura mondiale non era in Europa, era in Cina e era in India. Ora, dopo 2 secoli, la centralità della manifattura industriale sta tornando da un'altra parte del mondo, eh? È chiaro che questo elemento qui è un elemento di disequilibrio. È chiaro che in questo momento ci sono forze che escono da quello che doveva essere l'ordine imperialistico, e io ormai ripeto più volte razziale del mondo, cioè un ordine bianco in cui noi siamo forti, noi abbiamo la democrazia, noi abbiamo il dollaro, e tutti gli altri obbediscono. Evidentemente non è così, perché non ho ancora scritto nulla in proposito, ma nelle prossime settimane lo farò. La battaglia per cambiare la moneta che gestisce il mondo è forte. Quando tutti si lanciano su, non può essere il rublo, è chiaro? Ma il tentativo di demolire il rublo, il fatto che il rublo abbia tenuto, non è un buon segno per il dollaro americano. L'unica moneta che è andata veramente a fondo era la moneta che era nata per competere con il dollaro americano, che era l'euro, perché l'euro per quello è nato. La speranza dell'euro era diventare la moneta, tanto è vero che all'inizio delle grane con Saddam Hussein ci fu il tentativo dell'Iraq di rivendicare, noi cominciamo a pagare il petrolio in euro. Quindi evidentemente c'è qualcosa che in quel vecchio ordine non funziona più. Abbiamo visto la catastrofe afghana degli Stati Uniti e della NATO, perché quella è stata una catastrofe, mi dice, possono cucinarsela come vogliono, ma la ritirata dello scorso anno dell'Afghanistan è stata una delle ritirate più precipitose e più vergognose della storia degli eserciti occidentali. Punto e stop. Adesso possono anche dirci, io non ho nessuna simpatia per Putin, ma adesso non posso dire, adesso si ritirano i russi, lasciano i morti per le strade. Dico, vabbè, di solito gli eserciti quando si ritirano lasciano. A voi americani è andata bene che i talebani, per do ut des, non vi hanno bombardati mentre uscivate da Kabul, perché sennò anche lì volevo vedere cosa succedeva. Ma chiudiamo questo capitolo. È chiaro che su quell'onda qualcuno, forse Putin, poi per tutte le cose che si erano andate accumulando dal 2014 in avanti, ha tentato un po' il colpo di mano. Ma se noi stiamo guardando adesso, al di là delle minacce putiniane, usiamo l'arma nucleare, non usiamo l'arma nucleare, noi vediamo che si scontrano due concezioni della guerra molto diverse. Una concezione della guerra novecentesca, quella russa, l'artiglieria, la fanteria, che è addirittura ottocentesca, perché già nelle campagne contro Napoleone i russi utilizzavano l'artiglieria e poi la fanteria, e nella seconda guerra mondiale, quando sono avanzati in Europa, erano i giorni e giorni e giorni i bombardamenti e poi avanzava un po' la fanteria, poi giorni e giorni i bombardamenti e poi avanzava un po' la fanteria. Quella è la tecnica russa, può funzionare, può non funzionare. I russi sono famosi per lasciare sul terreno un sacco di morti, l'hanno fatto con Napoleone, hanno fatto nella seconda guerra mondiale, lo stanno facendo adesso. Sostanzialmente ai generali russi di buttar via carne da cannone russa non gli frega niente, poi vedremo, questo può avere delle conseguenze, ma non gli frega niente. Gli americani, che hanno il terrore di lasciarci giù i morti, ma vogliono bloccare i russi in Ucraina, usano un altro metodo. Qual è il metodo? Stanno usando il metodo che hanno usato negli ultimi 10 anni su tutto il fronte medio orientale, l'omicidio mirato. Il drone, il missile, noi generali che vengono, e adesso cominciano anche a rivendicarlo. Però è una teoria del massimo danno col minimo di spesa, soprattutto in vita dei propri soldati. Danno ne fanno, perché le scene che vediamo all'Ucraina, è inutile dire, non è che se la inventa qualcuno, i carri armati russi saltano per aria, i soldati russi muoiono, i generali russi sono stati ammazzati, quindi quella roba lì funziona. Ma funziona in questi termini. Bisogna vedere quale delle due tecniche arriverà a un risultato. Non è mica detto, Kevin, perché col drone ammazzo il generale, ammazzo l'altro generale, blocchi, però se gli altri intanto avanzano poco per volta, magari in territorio, no? Quindi questa cosa qui è già sintomo di una di... E poi, in realtà, Trump, di cui nel mio passato libro, più ancora dopo, ho parlato molte volte, era sicuramente meno fesso di Biden, adesso diciamolo. Uno, perché i democratici hanno la tradizione di incominciare le guerre mondiali. L'hanno fatto con la prima, l'hanno fatto con la seconda, l'hanno fatto anche con la guerra in Vietnam. Le guerre più grosse degli americani sono state sempre cominciate da presidenti americani. E in particolare nella prima guerra mondiale, l'allora presidente Wilson entrò in guerra senza nemmeno l'autorizzazione del Parlamento, esattamente come sta facendo il nostro Draghi, che è andato a prendere un po' di istruzione da Biden in questi giorni. Quindi, primo questo, Trump si rendeva conto che se c'era un avversario con cui confrontarsi seriamente, ma magari anche in maniera diplomatica, adesso anche lì dice, ah, sei per Trump. No, però guardiamo la differenza, era la Cina. ma gli Stati Uniti non possono impegnarsi sul fronte europeo e sul fronte cinese. Sì, possono illudersi che gli europei paghino lo scotto per loro, ma noi lo vediamo già che al di là dei paesi dell'est, e questo è un altro motivo del disordine mondiale, il conflitto interno all'Occidente, questa palla che ci raccontano che la NATO è tutta unita, oppure che molti a sinistra dicono ah, l'Europa tutta asservita alla NATO. Piano ragazzi, perché la Germania e la Francia non sono esattamente asservite né alla NATO né a Biden. È chiaro che parliamo di giochi importanti coi piedi di piombo. Il riarmo tedesco dà tanto fastidio forse ai russi, ma non credo più di tanto, ma più di tutto ne dà agli inglesi e agli americani. Boris Johnson difende i paesi baltici esattamente come nel 19 dopo la prima guerra mondiale inviò le truppe nei paesi baltici per impedire che chi se le prendesse, la Germania. La Polonia difende l'Ucraina perché vuole ricreare la grande Polonia. Quando noi sentiamo parlare di Leopoli, ma quella era una capitale polacca. Cioè, se noi entriamo nel disordine, prima ho detto grandi linee, Cina, India, e ci capiamo e potremmo dire mille altre cose, ma poi man mano che entriamo nel gioco che è in atto oggi, è tutta una contraddizione, è tutto un grande disordine. Chiunque veda in questo, ah questi sono tutti, ma no, no. Forse l'Italietta, che è quella che è la meno potente, la meno forte, ma mentre riarma la Germania, il Giappone ha rilanciato un riarmo forse anche superiore in termini di spesa. E se il Giappone entra in campo, non è che lo fa solo per fare un piacere agli Stati Uniti. Cioè gli interessi nel Pacifico, nel Mar Cinese, li hanno tutti. E quindi dico, attenti, apriamo una questione in Ucraina. E se, quando i cinesi opereranno su Taiwan, dopo che i cinesi avranno ben studiato le tecniche militari americane e inglesi in Ucraina, e non si faranno più mica tanto fregare, staranno attenti, ma non potranno fare gli stessi errori dell'esercito russo. Lì qualcuno sta spendendo malamente delle armi e delle tattiche che doveva riservare per un altro nemico. Se avete visto, Trump in questo periodo ha continuato a martellare Biden, se c'ero io non c'era la guerra. Lasciamo perdere il personaggio, no? Voler mettersi in mostra, sono il più figo di tutti, guardate me. Però ha degli elementi di ragione e Biden lo vediamo. A volte, a me fa ridere, tutti i momenti ci dicono adesso rimuovono Putin, ma guarda che in America prima o poi rimuovono Biden. Se continua ad agitare la mano nel vuoto per salutare qualcuno che non c'è e fare affermazioni per cui il Pentagono il giorno dopo deve intervenire con le mani e i capelli, noi non volevamo dire che facciamo la guerra alla Russia, capite che 1, 2, 3, 15, 17 e poi scusate, ricoveratelo, lo cambiamo con qualcun altro. Non so se sarà. No, voglio dire, un piccolo appunto, anche Monsieur Putin non è in gamba, perché uno che va a parlare di guerra con il plaid sulle ginocchia non è proprio, diciamo, l'ardito pronto a partire. No, no, ma c'è proprio qualcosa che non funziona anche lì. Pensando a quello che vi ho detto un attimo fa parlando di evangelisti, certo che stiamo assistendo a uno scontro sull'immaginario che è devastante. Cioè, da una parte e dall'altra, e noi dobbiamo fare soprattutto i conti con questa parte, non perché ci piace Putin, ma perché le cose che possiamo toccare concretamente sono soprattutto queste. C'è una campagna mediatica di demonizzazione dell'avversario, del russo, che ricorda tale quale l'imbarbarimento dei costumi che ci fu ai tempi della Prima Guerra Mondiale. Difatti, dicevo l'altra sera, guardate che siamo ancora sempre nella Prima Guerra Mondiale. Sono cambiate le armi, la distruzione, eccetera, ma la mentalità è sempre quella. Perché la Prima Guerra Mondiale, quando i tedeschi avanzavano in Belgio, si diceva che tagliavano le mani i bambini, le inchiodavano sulle porte delle scuole e delle chiese. Io, poi nelle guerre succedono degli atti di barbarie mostruose, però purtroppo, conoscendo un po' la storia, non posso credere proprio a tutto. Poi sono antimilitarista, sono contro la guerra, imperialista, capitalista, perché lo so che nella guerra ci sono i morti, i feriti, gli stupri, le violenze, i massacri e le torture. È inutile, a me quello che, forse anticipo dei temi, ma lo dico ancora questo, questa finzione che la guerra possa essere pulita, no? La guerra americana dei film dove al massimo viene ferito l'eroe o muore l'eroe per salvare donne e bambini. No, le prime vittime delle guerre, da sempre, e in particolare nel Novecento, sono le donne e i bambini. e tutti quelli che non riescono a scappare dalle zone di guerra. Questa è la questione. È chiaro che poi in questa guerra qui cosa succede? Che in un mondo già abbastanza disordinato, poi chiudo, se no rischiamo anche di perdere un po' il filo, in cui abbiamo già milioni di profughi da 1000 paesi in conflitto, si aggiungono milioni di profughi dall'Ucraina. E purtroppo questa cosa, che è sano e giusto ricevere, dare, però causa ulteriori problemi. Intanto problemi di differenziazione. Io vengo da Brescia. A Brescia, nei primi giorni dell'arrivo dei profughi a Brescia, all'ufficio della questura c'erano due code, uno per i profughi normali, diciamoli colored, gli altri per i profughi bianchi, ucraini. Per i profughi bianchi c'era il tè e i biscottini. Allora poi si sono create scene degne di un film di Woody Allen o di Fantozzi, di pakistani e africani che vedevano i tè e i biscottini e si mantenevano in fila dall'altra parte. E quelli dicevano, no, non sono per voi. Cioè adesso, è anche per rompere un po' la tragicità dell'evento, ma vi rendete conto delle contraddizioni che questa cosa qui è destinata? Così come mi parlano dei compagni di Carmilla di Bologna, che a Bologna non muoverti a fare una manifestazione antimilitarista che non sia pro-Ucraina, perché arrivano i profughi ucraini, prima insultare, se rispondi male ne arrivano altri, forzuti a minacciare, rivendicateno di essere di prima sector, eccetera, e cercare la rissa. Ma l'hanno già fatto più di una volta in quel di Bologna. Quindi capite che il disordine aumenta e tanto siamo qui per la fame, come diceva quella canzone della trattoria, in questo libro che è uscito dopo la guerra che viene, Guerra Civile Globale, che era un tour del mondo in tutte le situazioni in cui vi erano conflitti grossi, dai Gilets Jaunes al Cile a mille altre situazioni, fatte tutte da, l'ho curato io, ma fatto da autori che vivevano nella zona e vivevano quelle situazioni, in cui si vedeva come già lo scadimento economico, l'aggravarsi, ma gli scritti sono stati fatti ancora prima della pandemia, quindi portava a delle situazioni di estremo conflitto. Oggi noi stiamo entrando nel classico conflitto imperialista, che però avrà delle, nel disordine complessivo del ridiscutere l'ordine a Turchia, che diventa un elemento di trattativa. Potremmo fare mille esempi, lasciamo perdere. Facciamo l'esempio più importante, quello della votazione all'ONU. Dice, all'ONU hanno votato tutti contro la Russia. No, una cinquantina di paesi si sono astenuti. India, Cina, Indonesia. Quella cinquantina di paesi fa più della metà della popolazione del mondo. Quindi è chiaro che se noi, perché sappiamo che il mondo è pieno di stati cosiddetti francobollo, quelli che hanno poche centinaia, cioè vuol dire, ma volenti o nolenti non è che tutti gli stati contano uguali, no? Quindi questo primo sintomo di disordine mondiale. Nelle società questo disordine, magari ne parliamo dopo, diventa ancora più significativo. Mi fermo. Ecco, un'altra questione che sono stati gli americani finalmente a dire la verità è la questione della guerra per procura. E io aggiungo che non si tratta semplicemente di una guerra per procura, ma addirittura è per procura controllata, cioè non solo viene finanziata, non solo viene guidata, ma si vuole anche andare a stabilire come deve andare. Certo. Sì, è bastato vedere la proposta di Zelensky, dice trattiamo e vi lasciamo la Crimea, no? Era già una proposta riduttiva che molto probabilmente Putin non avrebbe accettato, ma anche su una proposta del genere gli Stati Uniti sono subito intervenuti. Stoltenberg ha detto no, la Crimea non si lascia ai russi. E oggi l'altra notizia è che gli americani hanno messo, sì è vero, noi da molto tempo prima dell'invasione che armiamo l'Ucraina, quindi voglio dire, c'era il tentativo evidentemente, io non so, lo dicevo nel libro, ne sono ancora convinto adesso, che qualcuno architetti così bene per far scoppiare una guerra proprio lì con quelle modalità, no? Certo che come diceva Chekhov, se nel primo atto di una commedia teatrale sul caminetto c'è un fucile, una pistola, prima dell'ultimo atto quella pistola o quel fucile avranno sparato. Quindi è chiaro che se lì accumuliamo armi, se lì accumuliamo tensioni, eccetera, qualcosa succede. D'altra parte, io mi ricordo, e anche lì sempre nel libro c'è in un articolo scritto allora, quando nel 2014, credo a febbraio o marzo, adesso non ricordo più esattamente il mese, andò il segretario di Stato di Obama ancora in Ucraina a incitare la libertà, io scrissi, guardate che da domani ci sarà l'arruolamento volontario in un sacco di milizie, e così fu. Ma lì non occorreva essere dei visionari, occorreva fare 2+2. Tutte queste cose sulla guerra, non è che adesso ci vanno solo... A parte il fatto che devo dire la televisione italiana, gli unici che parlano ogni tanto con un po' di senso sono dei ex generali e quasi mai dei giornalisti, i politici lasciamoli perdere. Però voglio dire, non è che ci vada una grande conoscenza strategica, ho studiato il debello gallico, allora vi spiego come funziona. No, basta fare 2+2 e vedo cosa può succedere, lo sappiamo per esperienza di vita, lo vediamo nella nostra vita, nelle cose che succedono e anche su questo piano qui. Quindi è chiaro che questa procura, è chiaro che è una guerra per procura, quello che dicevo un po' prima, ma non solo guerra per procura antirussa, io continuo a dire è una guerra per procura che deve far ristagnare l'Europa. Che quelli che l'Europa occidentale. Poi ci sono tutti questi stati in mezzo che sono stati messi nella NATO con un peso e poi gli scappa anche però la pecora nera. Orban. Adesso tutto questa bella, tutto questo bel quadretto di Europa Unita salta perché la prima vittima, allora, la prima vittima della guerra, lo scrivo da qualche parte, è la verità e ne abbiamo parlato con la verità. La seconda è l'Europa Unita. Fine. Da questa Europa qui, per quanto vi dicano, l'Europa uscirà. Se già era poco unita prima, alla fine di questo percorso, ognuno per sé col petrolio, col gas, con gli eserciti, eccetera. Altro che centralizzazione. E basta sentire non solo i tedeschi, ma anche Macron. Poi qualcuno, ripeto, l'Italia cercherà di giocare una partita filoamericana perché su quello si fonde, siamo anche il paese che forse ha più armi americane sul suo territorio, quindi sganciarsi sarà un po' più difficile, ma questo c'è. Ecco, adesso sempre scorrendo tutte le varie puntate che hai fatto sul nuovo disordine mondiale, io mi sono soffermato a prendere in considerazione quei passaggi dove tu parli del cosiddetto fronte interno, che per comodità io ho diviso in tre parti, cioè una gli Stati Uniti, due la Russia, tre l'Italia. Allora io partirei dagli Stati Uniti e partirei leggermente indietro, cioè ricordando che nel maggio 2020 a Minneapolis un poliziotto soffoca uccidendolo George Floyd. Le manifestazioni e gli scontri che avvennero in più di 50 città degli Stati Uniti certificavano quanto la polarizzazione sociale tendeva a spaccare la società americana. La partecipazione al movimento di strati della popolazione bianca segnalava che sempre più la questione riguardava non solo il colore della pelle, ma la questione di classe. Nel gennaio 2021 una minoranza significativa invadeva il Campidoglio a Washington a seguito della propaganda e all'invito di Trump, sconfitto ma ancora in carica. Anche quelli erano segnali di quello che possiamo definire una guerra civile di bassa intensità. Nel settembre del 2021 il ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan chiude con una sconfitta politica e militare 20 anni di barbarie. Allora io chiedo a Sandro, quanto questi passaggi hanno anche, sottolineo, anche determinato l'iniziativa di guerra in Ucraina? Hanno sicuramente determinato quell'iniziativa di guerra, ma con questo tipo di guerra per procura. Perché, cosa dicevo prima, ci sono due strategie o due tattiche, dite voi, novecentesca, fanteria, morte avanti, i russi. Pochi soldati, semmai di altri, gli americani sono bravissimi. Quando hanno risalito l'Italia nella campagna d'Italia, avanti sono andati i marocchini, i polacchi, i neozelandesi, gli australiani, gli inglesi. Gli americani hanno tentato lo sbarco ad Anzio, gli è andata male e hanno detto vai avanti tu che a me viene da ridere, punto. E mi sembra che sia quello che fanno un po' oggi, no? Ci sono altri che combattono. Gli americani continuano. Cosa ha chiesto come prima cosa Biden a Draghi? Di mandare ancora più soldati sul fronte est. E il governo che aveva approvato l'invio di tot soldati adesso sicuramente ne manderà almeno il doppio, cioè con i generali italiani che anche si stanno incazzando sentendo le cose scritte, perché pare che le armi migliori il governo si prepari a mandarle all'Ucraina, dice poi noi giochiamo con le fionde, no? Cioè, lasciamo perdere queste notazioni che potrebbero anche non interessarci. Però sicuramente gli americani, ricordate un episodio, per me questo è rimasto molto significativo, l'operazione Restore Hope in Somalia, che finì rapidamente quando negli stessi giorni sia le truppe italiane che quelle americane ebbero delle grosse perdite negli scontri nella capitale somala. Gli americani, Clinton, lì giocavano già forze dell'integralismo islamico, eccetera. Ma Clinton si ritirò dalla Somalia con 23 morti. Cioè, nell'epoca di Clinton, gli Stati Uniti non potevano superare i 23 morti in una guerra. Poi, nelle guerre successive, ne hanno avuti anche di più, diverse migliaia in Afghanistan. Però cerchiamo di tenere bassi i numeri, perché quella società spaccata in cui sia bianchi che afroamericani, poveri, sono quelli che vedono partire una parte dei loro figli o mariti per andare in guerra, e non potrebbero sopportare a lungo un ritorno a casa. È una cosa che l'America ha mai sopportato. C'è un famoso brano di rock and roll che si intitola Mystery Train, cantato da vari interpreti. Quel Mystery Train era il treno che ai tempi della guerra di Corea percorreva di notte gli Stati Uniti, nella canzone non si dice questo, ma è ispirata a quello, per portare a casa i morti. I morti arrivavano di notte nei paesi della provincia americana. Non bisognava far vedere, e ne ebbero tanti gli americani. Oggi mi fa ridere leggere che i russi lasciano i morti nelle fosse lì. Se leggete le memorie del generale dei Marines che comandò una parte dell'operazione in Corea, lui ricorda che i corpi si portavano o legati, ghiacciati come ghiaccioli, sui cofani delle jeep o delle auto, oppure con l'esplosivo si faceva saltare per aria un po' di terra, si buttava dentro i morti e si coprivano con i carri armati e via, per andare via, perché insomma non andò bene quella guerra. Da allora in avanti, tipica la guerra in Vietnam, quando gli americani hanno avuto tanti morti, in Vietnam ne hanno avuti 70.000, è stato un disastro. È una cosa che ripeto da anni e non ho tema a sostenerla. È una delle poche guerre, quella del Vietnam, insieme alla prima guerra mondiale, che è finita per il rischio che un sconvolgimento civile scoppiasse proprio nella casa di uno dei due, cioè negli Stati Uniti. Perché quando gli Stati Uniti si ritirano, quando Nixon decide di non bombardare più oltre una certa linea e poi di ritirarsi, a casa sua c'erano 20 o 30 attentati al giorno, non erano solo i weatherman, e i veterani tornavano a casa, facevano le manifestazioni. E quando nel 1970 nella Kent State University di Ohio ci sono 4 studenti morti, la prima cosa che fanno gli altri studenti è assaltare l'armeria della Guardia Nazionale dell'Università per armarsi. Cioè, era una situazione, lasciamo perdere, qualcuno potrebbe dirmi mancava il partito, ma era una situazione da guerra civile evidente. Meglio chiuderli, Black Panther, tutto quello che succedeva negli Stati Uniti. I soldati afroamericani che tiravano le bombe a mano nelle tende degli ufficiali bianchi al fronte. Il famoso rhythm and blues, framed, frammentato. Anche lì veniva fuori della bomba frammentazione tirata nelle tende dei neri. Quindi voglio dire, gli Stati Uniti su questo devono stare attenti, e la società americana non è mai stata divisa come oggi. Perché cos'è che è successo? È un tema di questo libro, la guerra civile. Per la prima volta, con la crisi economica, poi aggravata dalla crisi pandemica, c'è stata in tutto il mondo occidentale una netta frattura tra Stato e classi medie. per la prima volta le classi medie, soprattutto negli Stati Uniti, non hanno più avuto quell'aura di benessere, di garanzie che precedentemente aveva. E questo è un fatto non da ridere. La classe operaia americana, quel che resta della classe operaia bianca, nella guerra in Vietnam non intervenne, andava bene, producevano Phantom della McDougall Army, eccetera, andava tutto benissimo. Adesso hanno il terrore che qualche nuovo giocattolo cinese faccia chiudere qualche altra fabbrica in America. Ma non è che a tutti i costi vogliono fare la guerra alla Cina, sicuramente non hanno voglia di andare in guerra per un sistema che li ha fortemente impoveriti. E così, quindi abbiamo il contrasto classico a cui accennava prima Marco, dell'ordine razziale che è anche di classe, ma c'è anche qualcosa che è penetrato in profondità nella società americana. E guarda caso, sempre più spesso nella narrativa americana negli ultimi anni, non di fantascienza ma anche di, si è parlato di guerra civile, e sempre più spesso si parla di possibile guerra civile negli Stati Uniti, e sia gli scontri a cui faceva riferimento lui, che l'assalto al Campidoglio, che la successiva, perché poi c'è stato l'assalto al Campidoglio, quelli sono entrati e sono usciti, pensatela come volete, ma dopo, per l'insediamento di Biden, il Campidoglio è stato occupato per giorni dai famosi manipoli di militari. Ho pubblicato su Carmilla le foto dei manipoli accampati dentro il Campidoglio. Era una democrazia, che ho detto, quella di Biden, ammesso che esista democrazia negli Stati Uniti, ma lasciamoglielo credere, che nasceva sicuramente molto blindata, con la necessità di avere l'esercito dentro il Campidoglio. Quindi quello è un segnale che ci dice, non solo, un'ultima cosa, un'annotazione che faceva Caracciolo in due numeri fa di Limes, no? Della divisione della società americana, che è uno degli elementi geopolitici molto importanti. Ma non è mai successo, come in questo periodo, che ci fossero così tanti divorzi nelle famiglie americane per motivi di opinione politica, democratici e repubblicani, filo Biden, filo Trump, filo bianchi in rivolta, filo ordine, filo neri in rivolta, filo... E poi teniamo conto che ormai questa cosa qui, no? Smettiamo di raccontarci delle panzane. Non è più la situazione degli schiavi dell'Ottocento. Esiste una forte borghesia nera che ha tutti gli interessi del capitale americano. Barack Obama non era lì perché lo hanno sbiancato un po' ed è diventato digeribile per gli americani. Era lì perché rappresenta interessi specifici, di cui una parte degli afroamericani ci puccia. Si guadagna mica poco. Quindi dobbiamo stare attenti, perché tutti vorrebbero continuare a giocare quella partita negli Stati Uniti su quella che si chiamava una volta la linea del colore. No, signore, questa è una linea di classe. E questo va riscoperto. E va riscoperto perché coinvolge i bianchi e i neri. Quindi le rivolte successive alla morte di Floyd sono molto importanti, ne parla il libro Walter Riot. Ma anche la rabbia dei bianchi armati del Campidoglio è un peso. Se ci accontentiamo nella narrativa, dire quelli sono democratici, quelli sono fascisti, non andiamo da nessuna parte. Per capire, non solo gli Stati Uniti, ma quello che sta avvenendo anche qui. Banale esempio, e poi mi interrompo, Gilets Jaunes di Francia. Allora, per la par condicio, adesso passiamo agli altri, cioè passiamo alla Russia, ricordandoci che è la nazione più grande del mondo con pochi abitanti, solo 145 milioni. Nel 2020 la Russia ha un PIL di 1.483 miliardi di dollari. E tanto per fare un paragone con lo stesso anno, l'Italia ha un PIL di 1.886 miliardi di dollari, con la metà della popolazione. Gli interessi degli oligarchi legati al mondo della finanza e al complesso militare industriale non sono tutti favorevoli alla guerra. Le manifestazioni contro la guerra sono scomparse dalla TV e giornali grazie alla repressione e alle migliaia di arresti e fermi di polizia. Le ultime dichiarazioni di Putin alla parata del 9 maggio, nelle quali dichiara che praticamente l'operazione speciale è guerra e che i soldati russi sono morti e altri moriranno, credo che vedrà ampliare la propaganda di quel comitato delle madri dei soldati di Russia, che è una delle principali reti di opposizione alla guerra, e in concomitanza quanto andranno a pesare blocchi e sanzioni, cioè quello che potranno produrre nei ceti popolari, inteso come aumento della povertà e delle condizioni di vita delle classi più povere. Sì, io credo che potenzialmente in Russia ci sia una situazione esplosiva da questo punto di vista. Gioca però contro questa situazione esplosiva ancora due cose. Dal punto di vista russo, un sentimento di essere russi che sicuramente esiste. Però gioca anche la narrazione occidentale che vuole togliere dallo schermo la possibilità di rivolte, proteste, eccetera, e informarci quel tanto che basta di soldati che sabotano i mezzi o non vogliono combattere, soltanto per convincerci che la guerra è facile da vincere. Ma in realtà sempre dicendo, no, guardate, saranno gli oligarchi, saranno i generali a far fuori Putin. La cosa che non si può dire è che magari una rivolta sociale piuttosto estesa possa mettere in crisi quell'ordinamento, allora sì, spingere qualcuno a frenare o a togliere Putin. Vorrei aggiungere un particolare, forse ne ho già parlato una volta, ma ci tengo molto a chiarirlo sempre, perché la geopolitica è anche questo. La Russia è il più grande paese del mondo. Attualmente, senza le repubbliche tolte tutte quante, ancora 18 milioni di chilometri quadrati. Esattamente il doppio degli Stati Uniti, come Stati Uniti e Canada insieme, molto più grande della Cina, molto più grande dell'India. Ha un problema: 14 milioni di chilometri quadrati sono in Siberia, perché noi pensiamo la Siberia sia lì una roba come il Triveneto per l'Italia, non sono 14 milioni di chilometri quadrati. Nella maggioranza di questo territorio esistono, c'è la taiga, ci sono le foreste, esiste il permafrost, cioè il terreno gelato fino a 1000-1500 metri di profondità. Le temperature più basse della Terra non si raggiungono né in Antartide né nell'Artide, si raggiungono in Kamchatka e da quelle parti. Cosa vuol dire il permafrost? Vuol dire che c'è un terreno che è inadatto a qualsiasi forma di agricoltura. Al massimo, quando ci sono 12 gradi d'estate, adesso ce ne sarà qualcuno in più, c'è un po' più di fango, e poi quando rigela di nuovo tutto rigelato. La spinta di sempre della Russia, perché la Russia vuole essere occidentale, tutte queste palle che ci racconta, la Russia deve andare verso occidente. Le pianure fertili, le terre nere, quelle dove si campa e si mangia, sono qui. E una volta le occupava in gran parte, vedi l'Ucraina. Adesso anche questa ipocrisia di dirci adesso i poveri del terzo mondo muoiono perché la Russia, fra loro, quelli morivano prima, morivano adesso, anzi adesso cominciano anche a rivoltarsi, cosa che non va male, no? Però c'è una pressione verso territori più abitabili, di là ci sono le materie prime, c'è tutto quello che volete, certo, però quando si dice la Russia ha pochi abitanti, ma di là c'è uno strano parallelo, no, tra la colonizzazione del West americano e della Siberia. Avviene più o meno negli stessi modi: prima vanno i cacciatori di pelliccia, vengono distrutte le tribù locali, poi solo che in America si andava verso la California e quindi tutti di corsa per il clima, le terre, eccetera. In Siberia si andava verso il gelo eterno, cioè andava nell'ultimo girone dell'inferno dantesco. Quindi voglio dire, fin dal tempo degli zar in Siberia chi ci andava? Quelli mandati per forza. Cioè qualcuno poteva emigrare dall'Italia, diceva vado in America a vedere, mi hanno detto anche in Sud America, ma mai nessuno è emigrato precedentemente, no vado in Siberia, mi hanno detto che si sta bene, indipendentemente dal regime politico. Quindi queste cose sono cose che pesano sulla politica degli stati, sull'azione militare degli stati, sull'economia degli stati. Queste sono cose. Quindi, difficoltà. I soldati che vanno a combattere non vogliono andare a combattere. E di questi giorni la notizia che tanti di quegli incendi misteriosi in realtà sembra siano uffici d'arruolamento che sono stati dati alle fiamme. Uno per l'appunto in Siberia, che è stato assaltato a quanto pare da due che hanno tirato 7 molotov dentro all'ufficio d'arruolamento. Quindi vuol dire che un po' di scontento c'è, un po' di gente che scappa c'è. Sappiamo che effettivamente i soldati russi hanno sabotato i loro mezzi in alcune occasioni o hanno rifiutato di combattere. L'hanno fatto anche gli ucraini. Cioè la guerra, ed è una cosa su cui noi dobbiamo insistere, finisce quando i soldati cominciano a disertare e si afferma quella diserzione. In Ucraina è scappato un articolo di Repubblica a dire che nei boschi del Donbass c'è pieno di soldati ucraini che sono scappati dicendo non ci hanno dato il cambio, vogliamo solo tornare a casa. Così come qualcuno dice no, ma non hanno esposto le bandiere russe a Odessa in questi giorni. Per il 2 maggio, per l'anniversario della strage dei lavoratori, 48 ore di coprifuoco a Odessa, è messo in galera di tutti i possibili. Quindi voglio dire, le proteste ci sono in Russia, ci sono in Ucraina. Sicuramente in Russia la situazione è ancora più difficile, mentre gli ucraini, per male che vada, indebitandosi, caso mai riuscissero a uscire da questa guerra, un po' di aiuti li ricevono, la Russia non li riceve, perché la Cina e l'India continueranno a comprare materie prime, ma non certo a dar soldi alla Russia per la ricostruzione, e quindi lì potremmo assistere anche a dei fenomeni sociali non di scarsa portata. Però teniamo conto che l'unica cosa vera che si dice è che il sentire russo, sentirsi russo, la cosa su cui gioca molto Putin, barando chiaramente, qui funziona poco. Noi sentiamo il pericolo della guerra, sarà il terzo punto, ne parliamo dopo, però non ci sentiamo aggrediti. E la Russia ha una storia di aggressioni da fuori, che fossero i polacchi, prima di invadere i territori russi, i polacchi, che fossero i francesi con Napoleone e gli europei, che fossero i tedeschi, che fossero gli americani che hanno spinto negli anni di 1000 chilometri avanti il confine della NATO, beh, questo sentire c'è. E quindi è l'argine retorico che Putin o chiunque lo sostituisca può usare a fronte di questo, però la situazione credo sia abbastanza... Non vorrei essere in Russia nemmeno adesso. Sì, d'altra parte quel signore tutto vestito di bianco, che è il capo di una potenza mondiale, ha detto che l'abbaiare delle NATO alla porta della Russia ha determinato una reazione, no? Certo. Quindi dopo che comunque finalmente a tutti i giocatori di Risiko abbiamo spiegato l'importanza della Kamchatka, perché... direi che possiamo passare a quello che abbiamo definito il fronte interno italiano. Il fronte interno italiano, diciamo la verità, non si sta ancora manifestando. Abbiamo manifestazioni per la pace, contro la guerra, eccetera, ma la gente ha paura della guerra, la gente non ha molta simpatia per Putin, ma ne ancora meno per Zelensky, se sentite la gente normale, perché... detto volgarmente ne ha due palle di vederlo in televisione tutti i giorni con la solita maglietta. Mi diceva un mio amico da Toscana, di un vecchio contadino, dice, ma quello non c'ha la giacchetta, sempre con la stessa maglietta in televisione deve andare, no? Sono cose, ripeto, sempre un po' ironiche ma vere, che succedono. Io credo che qui in Italia, se davvero avanzerà questa cosa del gas, e penso che avanzerà, e le aziende, come ha detto Bonomi, perché non è la questione dei due gradi che ci ha proposto il signor, dei due gradi che ci ha proposto il signor Draghi, ecco. No? E qui ha proprio che le aziende chiuderanno. Qualche settimana fa Bonomi ha detto qui il 46% delle aziende italiane rischia una chiusura, una parziale chiusura, sulla chiusura del gas russo. E guardate che da ieri, non la Russia, ma l'Ucraina, ha chiuso il condotto che porta il 30% del gas russo in Europa. quel condotto che attraversava è stato chiuso dagli ucraini, non dai russi, e già il 30% in meno ci sarà da ridere. Ci raccontano che andranno a prendere il gas in Algeria. Bene, il gas algerino da sempre è un gas umido, deve essere mescolato ad altro gas, se no non funziona. Ci dicono che prenderemo il gas liquido americano, costa l'ira di Dio, e ci vanno i rigassificatori che non abbiamo. Vogliamo che questo non abbia, le ha già avute, no? Perché c'è stata la speculazione. Qui in Italia siamo dalla prima guerra mondiale in avanti, alla seconda, oggi gli speculatori sono i primi che si arricchiscono. Almeno una volta li chiamavano pesce cani, adesso no, sono impresari, eccetera. Però voglio dire, Leni si è venduto una parte delle riserve ad altri paesi, per quando ha visto che quel petrolio, quel gas che aveva di riserva, poteva essere venduto un prezzo 4 volte superiore a quello che aveva, cosa ha fatto? L'ha venduto. Quindi prepariamoci a una situazione di difficoltà a venire. E questa sarà una cosa concreta su cui io, scusatemi se lo dico, ma a me tutte quelle parole d'ordine, pace, comunismo, adesso ci mobilitiamo per il comunismo, per il socialismo, per tutti uguali, ci crediamo, ma non funzionano nella propaganda attuale. La gente sarà toccata dalla crisi economica, sarà toccata dall'aumento dei prodotti alimentari, dalla perdita di posti di lavoro. E guardate, io vedo troppe iniziative sparse, ognuno fa la sua manifestazione, la sua parole d'ordine che si assomigliano, non si assomigliano, poi ogni volta siamo in 1000, in 500, in 300. Non si trova un punto unificante. Guardate che, dal mio punto di vista, ci ho pensato, perché frequentando assemblee, conferenze, più, ma cosa facciamo, cosa facciamo? Io dico sempre, bisogna vedere che ci siano questi elementi di rabbia sociale vera, no? Perché, riporto, dicevo prima i gilets jaunes, fine del mese, fine del mondo, sono partiti da un aumento di 10 o 15 centesimi al litro della benzina. Del gasolio. La rivolta di Gilles Jean è partita, è durata mesi, è durata più di un anno, poi con la pandemia si è spenta. E io sono stato proprio in quei primi mesi di rivolta in Francia, qui si diceva che era già finito tutto, e là da ogni parte dove andavate le rotonde erano occupate, le macchine andavano, soprattutto nel sud della Francia, tutte andavano in giro con il Gilles Jean sul cruscotto per dire sono amico, fatemi passare. L'avevo messo anch'io su. Voglio dire, ma era proprio una situazione in cui le sedi dei Gilets Jaunes, le rotonde diventavano dei punti in cui la gente discuteva, ed era partito da quello. Ecco, quello è il momento in cui si può pensare che succeda qualcosa. Noi oggi abbiamo un obiettivo da indicare, che sembrerà massimalista, ma può unire molte forze, molti modi di sentire. E il signor Draghi, quando Draghi tornerà dall'America con i suoi ordini, la parola d'ordine non via il governo Draghi, ma via Draghi, può diventare molto importante. Non perché sicuramente facciamo andare avanti fuori rappresentante, però può unire tanti modi di sentire. Perché dall'arrivo di Draghi in avanti, certo, la nostra economia non è andata meglio. Il piano pandemico non è stata sta meraviglia. Dal punto di vista economico le cose non sono rose e fiori, e adesso ci fa anche spendere un sacco di soldi per la guerra, se non mandare soldati e coinvolgersi, perché, ultima cosa che dico, per il diritto internazionale, piaccia o non piaccia, chi manda le armi a un paese in guerra è co-belligerante. Adesso Putin non ha voglia, sta ancora facendo i suoi giochetti per dividere l'Europa, tutto quanto volete, ma oggettivamente è sotto gli occhi di tutti che l'Europa, se continua su questa strada, in particolare Inghilterra, America e domani Italia, francesi e tedeschi saranno un po' più furbi, saranno in guerra, e saranno loro in guerra, perché anche i polacchi, i rumeni, per fare la guerra o sostenere la guerra degli ucraini, le armi le devono chiedere qui. Danno qualche vecchia arma sovietica e si fanno dare delle armi nuove dagli americani, ma insomma, sappiamo da dove arriverà questa cosa. Possiamo capire che l'industria bellica occidentale ci guadagnerà qualcosa, ma ci sono un altro sacco, cioè quella delegazione di rappresentanti delle industrie calzaturiere italiane che sono date in 40 da Putin fregandosene di tutto, ci dicono di uno scontento forte che c'è. È uno scontento che è diverso dal nostro. Però è qualcosa che rema contro la guerra. Quindi il concreto, cioè Marx cosa diceva? Cos'è il comunismo? No? È il movimento reale che abolisce lo stato di cose presenti. Non è un movimento ideale, non è un'idea, non è una bella idea, non è una cosa che affermiamo. Bianchi, neri, cinesini, siamo tutti fratellini, premio bontà, notte di Natale. No, è qualcosa di concreto che ci agita, che agita la gente, che fa incazzare, che fa paura ai soldati al fronte. Quello è il reale, il concreto con cui dobbiamo fare i conti. In America, in Russia, qui da noi. Il nostro fronte interno. Qui da noi, volendo, possiamo avere un bersaglio. Ma lo dico solo per... Sono stato in un'assemblea, poi chiuso, qualche settimana fa a Torino, degli universitari, 60 presenti, 10 iniziative elencate sulla lavagna. No, dico, scusate, siamo 60, 10 iniziative, siete 6, poi qualcuno ne frequenta più di uno, sappiamo come siamo nei nostri ambienti, però sempre quelli siamo. Possibile che non ce ne sia una unitaria, con un obiettivo che può essere perseguito, non ideale, concreto. Niente, su questa questione mi è d'obbligo ricordare a tutti che il 20 maggio c'è uno sciopero generale organizzato da diverse sigle del sindacalismo di base contro la guerra. Altro non sono in grado di dirvi, nel senso che non so esattamente a Milano se c'è il corteo, se c'è il concentramento, il presidio, non so che cosa c'è. Ma anche questo, diciamo che in fondo si parla di uno sciopero generale contro la guerra. Mancano non 7 mesi, ma mancano 9 giorni, qualche notizia di tutti questi apparati che sono in campo dovrebbero pure manifestarla. Ok, io quello che dovevo dire dello sciopero generale l'ho detto, perché altro non sono in grado di indicarvi. Passo a quel passaggio che però tu dentro sempre una di quelle 1000 puntate, perché non posso ricordarmi se nella puntata 7 o la puntata 8, segnali, qui ti cito, perché tu segnali i ritardi, gli errori di tutti coloro che pur sentendosi parte di un'opposizione all'esistente hanno preferito chiudere gli occhi, illudersi e rivolgersi ad obiettivi apparentemente già belli e pronti, con tanto di simulacri di movimenti nelle piazze, piuttosto che dedicare tempo e attenzione a ciò che da tempo bolliva nella pentola degli apprendisti stregoni del capitale. Ce lo puoi approfondire questo passaggio? Sì, magari a molti sembrerà una semplificazione, però io credo che gran parte del movimento si sia completamente appiattito sulla visione del mondo del capitalismo. Cosa intendo? La guerra non c'è più, nessuno se l'aspettava. Aiuto, aiuto alla guerra, com'è possibile? Io ricordo, presentavo questo libro, ma no dai, Russia e Stati Uniti sono messi d'accordo sul gas, cosa vuoi che faccia la guerra? La Cina e gli Stati Uniti si mettono d'accordo, va bene, siete convinti. L'Europa è sottomessa alla NATO, no? Tutte queste visioni a blocchi, per cui... E allora cosa c'era da fare? La grande battaglia dei diritti. Diritti civili, diritti umani, diritti... Ma in tutti questi diritti, scusatemi, il conflitto di classe scompare, perché i diritti, per quanto giusti e sacrosanti, appartengono a un mondo liberale e possono essere affermati, se proprio vogliono, in un mondo liberale che rispetti le sue stesse leggi. Il conflitto di classe, invece, non è qualcosa che può essere controllato e messo lì, è qualcosa che va agitato, che va stuzzicato, che va visto quando c'è. Qua dicevo prima sugli Stati Uniti, piacerebbe tanto ai liberi americani, a voi bravi afroamericani adesso tutti uguali. No, intanto non siete tutti uguali, perché una parte pur piccola è ricchissima e gli altri continuano a spacciare droga per sopravvivere o a vivere in condizioni disumane per altri versi. E poi non è quella la questione. Non è la questione dell'eguaglianza formale. La rivoluzione francese ci ha promesso l'eguaglianza formale, no? L'egalité, égalité, fraternité, tutto il resto. Ma no, sappiamo benissimo. Aveva già capito Rousseau che l'unica vera differenza tra gli uomini è quella tra chi ha e chi non ha. Difatti Rousseau, tra tutti gli illuministi, era quello tenuto da parte, che diceva che l'evoluzione della società in realtà era un'involuzione, non era lo sviluppo reale, eccetera. Tutte cose con cui noi stiamo facendo i conti adesso. E sappiamo benissimo, Greta, a me piace, quando è uscita Greta ero molto contento, ma sappiamo che il discorso di Greta può suscitare attenzione ed è giusto, ma non è la soluzione. Un modo di produzione come questo va rovesciato come un calzino. Non c'è modo di aggiustarla quella cosa lì. Se non riduciamo la produzione di prodotti inutili, se non, e quindi conseguente estrattivismo, se non usciamo dalla società mercantile, se non usciamo dalla società competitiva e continuiamo a dire che se facciamo ancora una piccola cosa poi siamo tutti più bravi e più vicini, ma ci ingarbugliamo sempre di più. E qui in Italia, qual è stato il partito campione dei diritti? 5 Stelle no, la Lega no, il PD. Ve li ricordate i rappresentanti del PD sulle navi dei migranti in mezzo al Mediterraneo? Io già scrivevo, guardate che questi si preparano solo a carriera politica, nient'altro. No, ma allora tu ce l'hai con i migranti? No. Ma qual è il partito più guerrafondaio adesso sulla questione vera in Italia? Non è il PD forse? E allora con quei diritti sventolati nel modo democratico liberale, ci facciamo la birra, cari compagni, se non li inseriamo in un discorso di classe, di lotta contro questo modo di produzione. Tutti i diritti sacrosanti, ma ripeto, e mettano in atto i matrimoni civili. In Spagna, che è un paese che era molto più arretrato, l'hanno fatto molto prima dell'Italia. Si possono fare quelle cose, non dobbiamo mandare tutti a tutti i costi mobilitarci. Cosa facciamo? L'accoglienza per i migranti a tutti i costi, purché ci siano e vadano a cogliere pomodori a un euro o due euro al giorno nel sud? Quella è l'accoglienza che vogliamo? Che è quella che a quanto pare vogliono i signori dei diritti. E potrei dirne mille altre, non li dico. Ma questa è una trappola mortale. I movimenti pensavano di essere vivi e invece morivano giorno per giorno, e di fronte alla guerra noi abbiamo la paralisi totale, totale. E tutti quei diritti possono essere da noi difesi e portati avanti, ma con un punto di vista di classe, non liberale. Ed è fondamentale quella cosa lì, è fondamentale. E non perché ci dichiamo comunista, loro, no, perché teniamo in conto le contraddizioni reali su cui si basano il rapporto uomo-donna, i rapporti tra immigrati italiani, tra i generi, eccetera. Ma sono contraddizioni di classe economiche, concrete e materiali. Se usciamo da quel terreno lì, facciamo della chiacchiera da salotto. E purtroppo tanti si sono mobilitati su quella cosa lì, illudendosi che così chissà cosa facciamo. Non è vero. Allora, io credo che di carne al fuoco ne è stata messa tanta, quindi siccome poi abbiamo anche il collegamento online, poi mi manderanno se qualcuno vuole intervenire, però nel frattempo se qualcuno vuole intervenire da qua me lo dica, che deve venire qui perché gli passo il microfono e può venire a parlare, ecco.